mio. E non per te, non per te. Seduto sulla sedia. E cosa stai facendo? Sto parlando con te. Eia, eia, e come mi senti? Con le orecchie, forte chiasso. Anch'io, anch'io. Ciao, grazie, buonasera. Ciao, per sentirti anche a te, andando te ne stai. No, già sono qui in ascolto e non ce la faccio a parlare perché sono preso alla gola dall'influenza e non mi senti che sono rauco. Eia, e prenditi qualcosa per la gola, qualche sciroppo. Sto prendendo quelle pastiglie di Yolofan per la gola, speriamo che mi torni la voce. Adesso provo. Il miele poi, se tu metti il latte, ti metti due cucchiai di miele, allora anche ti fa bene. Già lo so, Grazia, già lo so. Ma come mai in PMR non mi sente nessuno sul canale vostro? E su che canale sì? Noi siamo sui 446-081. In quel canale lì non mi sentono. È l'antenna, cosa c'è? Il domino o l'antenna esterna? L'antenna è, tu già mi senti, perché lo so che mi senti, che ci abbiamo parlato molte volte. E io so l'antenna esterna e l'antenna è il domino. Però il più del domino, capito? Perché mi devo fare lo spazio per metterlo fisso con l'antenna esterna, capito? Allora vado per il gomino per quello. E io già ne prendo di gente, anche nel gomino. Vabbè, va. Ok, ci sentiamo, grazie, grazie per essere entrato. Però purtroppo sono con la voce così. Vabbè, cura, ti prendi il miele, che per regga ti va bene. Ciao, buon proseguimento. Ciao, ciao. Ciao, grazie, ciao. Circa 10. Circa canale 10. Attenzione canale 10. Attenzione canale 10. C'è nessuno? Circa canale 10. Circa canale 10. Alghero, c'è nessuno? Attenzione Alghero, tratta richiama. Alghi, alghi, alghi. Sassari, c'è qualcuno? Pronto, pronto? Sì, sì, Giaffra in ascolto. Ok, ok, Giaffra, non c'è problema. Se praticamente arriva la pizza, chiudi tranquillamente, no, non c'è problema. Sì, ok. Mettono tanta antenna, stanno per cambiare. Capito, Fatti. Se ti interessa quel sistema lì, giusto per giocare come abbiamo fatto in questi ultimi, anche se ho capito che qua trattare non fa molto. Sì, vabbè, ma no, non c'è problema, Giaffra, non c'è problema. Cioè, è un sistema utilissimo, no, non riesco a capire perché con l'aggancio del ponte in BMR fa quel disturbo. Non riesco a capire, ci dobbiamo vedere magari un attimino e si ricontrolla, dai. Per vedere se che cos'è, non lo so, perché dalle altre parti va benissimo. E solo l'aggancio del ponte fa quel casino lì. Si possono fare 3 miliardi di cose. Su me non li fa, ma ovviamente visto quei portati che sono. Però, sai, quello è super economico, con bisogno a quel prezzo. Se lo dicevi 5 anni fa, ti prendevano fermato. Lo so, vabbè, ma comunque per iniziare penso che sia più che sufficiente, penso, e poi insomma vediamo, non lo so. Ma quindi non ne ha più la tattura di Tonino? Vabbè, vado alla crociarvelo. Spero se ce l'ha, ti ripeto, mania tortuga sottoterra che non sapevo manco che esistesse, non so manco come si chiama, non è SMA, non è un connettore particolare che poi praticamente esce con PL e quindi ci ho collegato direttamente il carretto della base magnetica che non si trovava, quelle basettine piccoline insomma che c'erano un tempo. Prima era un BNC, poi sono usciti con questo attacco un po' strano e me l'ha trovato Antonello a Cagliari dal fratello di Vittorio Fusaro. Ma va bene, va bene, va bene, va bene. Sì, comunque. No, è interessante, sto qui per fare due prove, per spostarci, per capito. Volevo vedere se mi ascoltavi nell'uno in DMR, quello che mi hai memorizzato tu. Beh, sicuramente sì, il problema è che l'ho memorizzato io, capito? Però c'è un problema. No, ma no, lo posso anche togliere, no, era giusto per fare una prova. Anche non facciamo niente, rimaniamo così, ok? Va bene, va bene. Quindi stanotte pizza, no, noi abbiamo deciso sabato. Volevo fare stanotte mia moglie, e invece no, ho detto lasciare la sera, facciamo sabato. C'era altra roba a cena, quindi niente. Sono andato a portare il cane perché mi ha fregato, non stava piovendo, mi affaccio e stava diluviando. Allora ho detto, no, passiamo, mi frega, la porto prima e così poi mi siedo, mi faccio due chiacchiere. Ma un po' piove un po' no. Mentre ieri notte c'era una mezza tempesta d'acqua proprio più o meno. Non si capisce niente, ma proprio niente. Sì, io non te ne ho buttato tanto, ma anche stamattina ho visto verso le 5, 4 e mezza 5. Mi sveglio sempre a quell'ora ormai, sono abituato, poi mi riaddormento, però ho visto che stava diluviando. Infatti stamattina l'ho preso, mi sono alzato, visto che c'era una tregua, ho portato presto il cane, proprio svegliato, trascinato, io andiamo. E stasera la stessa cosa, perché lui ormai c'ha quegli orari e prima di quegli orari non esce. Poi se mi frega mi bagno di nuovo, ieri mi sono tutto bagnato, ho dovuto fare una bella doccia calda, asciugare i capelli, avevo una maniera di figa senza ombrello, capite? Non mi porto al lavoro che ombrello ne usavo poco, no? Quindi adesso ancora mi sono adeguato che sono a casa e continuo a uscire sempre senza ombrello, tanto mia moglie si incazza. Dice tu riparati, lui se si bagna quando arrivi a casa si asciuga, e invece mi sono asciugato, prima mia figlia ha asciugato il cane e io nel frattempo mi sono dovuto fare una doccia bella calda e asciugare perché ero tutto bagnato. E allora stasera non mi frega Giulietta, io ne usciamo prima. No, invece a me mi ha tutto piccato, stavo lavorando fuori, una rottura di spalle. Infatti mi fa anche il mal di gola. Stamattina lo stesso mi ho preso perché sto posizionando tutte le telecamere. Figurati il cavo nuovo delle antenne che non sono riuscito a metterci un PL col cavo che è triccia a triccia, ma normale di quelli anti-acqua, un altro forno altro qua. Lo so, no, io non sono manco salito su a vedere con quei venti, quelle cose, ho visto laggiù che le antenne ci sono, tanto non è che ci manca molto a smontare tutto lì. Alcune risposte definitive per avere proprio i tempi giusti per poi mettere in funzione lo smontaggio. Va bene, va bene. La pizza non è ancora arrivata. No, sembra ancora no. Infatti, non ho occhio sulla figlia sorveglianza per la fiamma, ma ancora no. E niente. Tutto vero, a questa parte si lavora il fascio di spesa, lascio la piena, non so anche molto. Sì, stai attento perché mia moglie dove trovano fuori, siamo dovuti rientrare il 23. Anzi 24 siamo rientrati, perché stava male, male. Ha fatto sia il Natale a letto che quasi anche il Capodanno. Fortunatamente il 31 stava un po' bene, quindi insomma abbiamo passato, però è stata malissimo. Il virus l'ha colpita in pieno, nausea, capogiro, vomiti, senza nessun altro sintomo, proprio così, non si reggeva di più. Qualche lignettina di febbre ha avuto, perciò bisogna stare attenti. Io se il prossimo anno Gesù Cristo mi lascia, perché cioè non si sa mai, ormai l'ha preso atto, bisogna stare attenti alla nuvoletta dei fantozzi, no? Capito? Faccio il vaccino e così sono a posto, Gianfranco, perché anch'io sono reduce da poco, una ventina di giorni fa l'ho preso influenzato, mal di gola, eccetera, eccetera. E vabbè. Gaiesce. Adesso un casino, infatti, devi stare attento quando rientri a casa, quando usci fuori, se qualcuno non ti investa sul marciapiede, insomma, adesso le trova ospite e per farti fuori, è una cosa micidiale, e tu devi risparmiare sulle pensioni, farebbero qualunque cosa. Ehi, vabbè Gianfra, sempre aggiornata lì, vabbè sono andato, già c'ho l'assicurazione sulla vita, quindi spero un po' di soldi, mia moglie è campa lo stesso. Va bene, avevo deciso quest'anno proprio di ritirarmi tutto, invece l'ho allungata ancora di altri 5 anni. Va bene. E bisogna stare attenti, stare attenti a loro, agli altri, bisogna stare attenti a tutto, perché non si sa mai. Bisogna stare molto molto attenti, i pazzi ci sono in circolazione, capito? Che andrebbero ritirati, invece non li ritirano, purtroppo. No, una cosa pericolosa è la macchina. Io, tu lo sai, per quanti anni ho fatto l'autista, quindi pazzi che corrono, però guarda le cose che sto facendo adesso non le ho mai viste. Sicuramente la stessa cosa sarà capitata a te, che vedi delle persone veramente che non vorranno ora di finire in scatola. Il problema è che dentro la scatola ti fanno finire anche a te, capito? Perché ti fanno affrontare. Poi però magari se la cavano e sono invece ci metti di più. Era un macello. No, Gianfra, mio lavoro era a livello di Spiri Gonzales. Correre tutto il giorno, a destra e a sinistra, guarda, una cosa pazzesca, a volte dicevo, ma come si fa a stare così 6 ore e 40, quando non erano 8, quando non erano 10, soprattutto nel periodo estivo, perché è quello lì che ti fa veramente dannare, capito? Soprattutto nel periodo estivo. Quindi a volte rimanevo perplesso anch'io, non si può correre così come pazzi, solo perché devi avere determinati orari, devi avere determinati passaggi, eccetera, assolutamente. Quindi io non sono uno che corre in macchina, non ho mai avuto nessun problema, grazie a Dio, però sai, è un attimo, soprattutto lì, in cocca, dove ero io prima, ci vogliono 4 occhi, 2 avanti e 2 dietro, perché purtroppo i turisti arrivano, non sanno dove andare, si lanciano, fanno, non rispettano le normative stradali, non rispettano gli stop, non rispettano niente, e alla fine ci si ammazzano, hai capito? Quindi molte volte ho rischiato tantissimo. E vabbè, pazienza. No, ma a me adesso sta capitando anche in città, gente di strada, un passo in triasso di telefonini in mezzo sempre alle mani, posso fare l'accento anche a fermarmi a dare precedenza ai pedoni, no, che sono due strisce. La prova mi sono fermato, ho portato una signora e uno che evidentemente era associato, ma mi ha sperato a monte la mette sotto. E ho andato tante di quelle bestemmie che se sono nel carrozzato una povero lui. Sì, è capitato anche a me, proprio qua in via Milano, giù, dove c'è il semaforo, ci sono le strisce pedonali, io lo fermo, era verde, però, dopo mi fermo lo stesso, faccio passare una donna grande, e questo è arrivato, mi ha superato, non mai l'ha vista, ma gli ho baciato il finettino, già ne ho detto due, che purtroppo è così, no? Oppure alle fermate dei bus, bisogna stare molto attenti, perché escono al senso contrario, ti trovi il pedone davanti, cosa fai? Cosa fai? E poi la sua stava correndo, non è quello il problema, è che tante volte ci può essere una distrazione da parte dell'automobilista, ma ci sono anche tantissime distrazioni da parte anche dei pedoni, quindi poi una ne fai, una ne paghi adesso, con la nuova legge l'omicidio stradale, non ti sai, vieni. Per la seconda volta finisci dentro anche, ma poi non si rendono conto che non c'è solo il fatto penale che di per sé è già molto grave, ma ci sono i costi, quando tu inizi a andare in mano all'avvocato, per portare via tutto e ti lasciano in stand, perché costano tutto il penale, l'omicidio. Come mai la ora già fra di porre fine a questo, a questi incidenti che tra l'altro a volte sono banali, però ci scappa il morto, capito? Era ora, la gente sta molto più attenta, però si continua, anche nel 2017 ci sono stati un sacco di incidenti stradali causati da cose a volte anche banali, però se c'è il scappa il morto non c'entra affatto. Purtroppo è così, capito? Purtroppo io quella strada l'avevo morta con la signora lì, nella strada di Sant'Antonio di Galluna, quella io l'ho percorsa per anni, è una strada bruttissima, bisogna stare molto molto attenti, sono degli incroci a raso, delle uscite molto particolari, e purtroppo se non si rispetta il codice della strada e non stai attento, alla fine è un casino. Pazienza, bisogna stare molto attenti comunque. Sono cose che passano in frazioni di secondi, non lo vogliamo capire. Comunque, l'anno che è passato se ne è portato via tantissime, ma sia anziani sia anche ragazzi, parecchi ragazzi, da tutti i due, certo. Da poco c'era qualcosa nel giornale che ho letto così di sfuggita e gli è venuto malore, Gianfranco. È venuto malore, contattato clinicamente, e poi quando praticamente sono avute le convulsioni, insomma, ha avuto tipo così diceva il giornale, un attacco epilettico. Quindi non si è accorto neanche di quello che stava succedendo, perché era già in corso proprio, capito? Ma ora ce l'aveva in corso, al momento in cui li ha presi non era più cosciente in macchina, capito? Le brutte. Speriamo ci vada sempre bene, grazie a Dio fino adesso. Sono quattro che non bastano, ma ormai adesso stanno facendo le macchine che frenano da sole, anche con tutto questo maledetto Matteo, tipo le Volkswagen e tante altre, vedono il pedone davanti e spontaneamente si bloccano la macchina. Sì, l'ho visto, quello è un bel sistema, però sai, quello è un sistema adottato nelle macchine di ultima generazione, di queste che sono uscite adesso, quello era un fiorino, anche se era nuovo, perché ho visto che era abbastanza nuovo, era simile a quello che usavo io. Quel ragazzo tra l'altro di vista lo conoscevo, di Valle Doria, però quando capita così che c'è un mezzo del genere che non avevo fatto di nessun sistema tecnologico, ho già fra o freni o ti cuglia un murumi, e due sono le cose. Io infatti l'avrei fatto qui da studio per tutta la macchina nuova, così almeno qualche pochino di sicurezza in più, ma dai, sia per chi guida e sia anche per chi passa. Beh certo. Sicuramente sì, sono d'accordissimo con te, però purtroppo le macchine che stanno uscendo adesso stanno adottando questi sistemi tecnologici che salvano la vita, ma le macchine vecchie, oddio, macchine che sono uscite 2-3 anni fa, no? Alcune macchine, per carità, alcune ce l'hanno, alcune no, ma i costi di chi ha quel sistema per comprare una macchina sono abbastanza alti. Anche la Volkswagen penso che sia una delle prime, non lo so, non me ne intendo, però ho visto che tecnologicamente era abbastanza all'avanguardia. Sì, vabbè, ma essendo l'obbligatorio di sulla macchina, via, poi spesso dovrebbe calare di parecchio, diventa più un accessorio, ma diventa proprio una cosa che fa parte della macchina, un po' come la Vespa, che adesso fanno un po' tutti l'antico direttamente, con tutta questa abilità, eccetera. Ma vabbè, comunque. No, non c'è nessuno, sono 23, insomma. Almeno Giulio e Marco erano lì che parlavano sul canale 23, non lo so, evidentemente. Io ho chiamato un paio di volte, non mi ha risposto nessuno, sono rimasto sempre qua, però ho visto che erano lì loro. Vabbè, ognuno è libero di andare dove vuole, credo, no? Quindi non è che si può stare qua a attendere che qualcuno parli, io non mi sposto quasi mai, se mi sposto ad ascoltare, ma non entro, infatti li ho sentiti di parlare, sono tornato qua, anzi, eravamo in digitale, ti ho detto di passare qua a fare due chiacchiere, giusto per far scaldare, infatti usando il 430, per far scaldare un po' questa radio che da parecchio che non la uso, giusto per fare due chiacchiere. Ehi, Gianfra, vai tranquillo, rimango qua in ascolto, dai, ci sentiamo dopo, se coincide, se no domani, ciao. Qui c'è 10, CQ canale 10. Qua c'è Natalie. Sempre io ci sono. A me, tu, a tutte e serme. Io con Gianfranco che è arrivato alla pizza e è andato a cenare. E niente, tutto qua. E beh, Piuma, come stai? Ehi, io mi due chiacchi ogni tanto con Gianfranco facciamo. Questa sera eravamo in HF, giusto così per far andare la radio. E poi niente, abbiamo fatto due chiacchiere con le 10. E tutto lì, io, anch'io no. La sera solo sono in radio, la mattina me ne esco, pomeriggio guardo un po' di TV e se no diventa troppo monotona la cosa. Ehi, registrato il break. Sì, e beh, tu c'hai il posto, c'hai la campagna, è micidiale per quelle antenne lì. È micidiale, io ci do tutta quella, non la posso montare per la piazza. Potrei anche farlo, accadata a scendere lì, attaccata a qualche albero, ma è troppo bruttissimo, non mi permetterei mai. Se la campagna va bene a fare quelle cose. Avanti break, mi pare Capri, avanti. Thank you. arrivare lì, soprattutto quella di 160, che è quella più lunga, ci vuole posto. Quindi chi ce l'ha lo può fare, ma io già no, non faccio le altre bande, mi metto anche a fare 160, figurati. Volevo, c'ho il diploma degli 80 che nessuno l'ho manco collegato, figurati, manco collegato al commutatore, quello che mi ha virato tu, niente, è ancora attaccato il cavo, non mi interessa, vedi, non mi interessa, poi si vedrà più avanti. Sì, Capri, come ti ha detto Elio, hai problemi come l'altro giorno, quindi vedi, controllarlo sto microfono perché è fastidioso, non si capisce, mancano le parole e quindi non si capisce, capito? A volte non so cosa stai dicendo perché non si sente niente, riprendi. Sì, anche qua, sugli 8, sì, qua, già va bene, evidentemente la potenza è molto bassa, bene mera, e beh, com'è andata l'annata delle olive, Elio? Buona anche quest'anno? Come fanno con i ricci, la stessa cosa. e ci aggiungono porcheria, e mi sembra latte, non so che cosa, e poi ti dicono che è tutto ricci, invece no, non è così. No, beh, bisogna stare attenti, come dici tu, bisogna stare attenti da chi si compra il prodotto, deve essere una persona conosciuta, perché se no ti frega. Vai Capri. Sì, questo è Lelio, fatti sentire, salutami la ditta, vai. Ci sentiamo alle prossime. Vai Capri. KK, va bene che va bene. Ok, vediamo se c'è Natalino all'ascolto, sta già cenando. Natalino ci sei? No, non c'è, va bene. Ok. E niente, no, io qua c'avevo 10 acceso. Sai che io tutte e tre io. C'era qualche altro sito, c'era questo su 23. Mi sono messo a fare delle prove con Gianfranco in digitale e niente, e poi nulla, poi sono ripassato qua, ma ho visto che era sempre monitorizzato, visto che non ha chiamato nessuno, e quindi mi sono dedicato a fare altro. Va bene, va bene. Lo stavo dicendo, e che microfono stai usando, su quel 5008, quello suo originale? Sì, lo conosco perfettamente. No, io stasera ho tolto i baracchini e li ho messi sopra al dati, il 48, Superstar, l'altro, e li ho accesi tutti stasera, li ho accesi tutti, ho anche provati, sono perfettamente funzionanti. Avevo questo acceso 4.30 e 4.40 e poi stavo facendo le prove con Gianfranco e nulla, tutto qua. Io intanto mi sono già le 8.20, 8.15, che sono sì, 20.15, 20.14, tra un po' andiamo a cenare. La giornata è finita, davanti c'è un po' di impegni, un po' di cosettine da fare e niente. Vabbè, tutto ok, tu sei rientrato al posto di combattimento, così è. Uniden, ho avuto la linea completa, ricevitore, trasmettitore, 2010 però, come simile alla linea del Craft, molto bella, molto molto bella, l'avevo data il cambio della linea Drake. Vecchio, ma però non so manco se è più vivo, non so. Sono belle le linee unide, sono molto belle. Questo cos'è? Un portatile, cos'è? Un veicolare? Ah, molto bene, beh, siete riusciti a recuperare il fontaniere poi? Ecco. Sì, che già ce la fanno, Ino, la buona, ma voi ce la fanno. No. Sì, quel pozzetto l'avevamo visto assieme, lì, quello lì, fare tutto sotto, l'ho detto. Già, se ci sono problemi chiamami e mi avvicino, non ti preoccupare per questo. Va bene, dai, buona cena anche a te, alle prossime, grazie delle due chiacchiere, ci sentiamo domani, ok? Ciao Gianni. Ciao Gianni, quando vuoi, non c'è problema. Chi è che vuole entrare? Ciao anche a Gianni, ma Gianni non lo sento però, è molto molto basso. Perché sto usando un baracchino di quelli piccoli e da poca potenza. Ciao Fai, ti sentivo sotto di lui, perché arrivate più o meno con lo stesso segnale, capito? E quindi non riuscivo a capire chi era. Ehi, allora, ho detto cosa fare? Sì, te l'ho mandato giusto per farti capire, appunto, non so se l'hai detto tutto. Vabbè. Questo cacchio ministero vuole mettere la gente proprio alle strette, se ci vuole anche quest'altra 12 euro, qui ci siamo a posto. Alla fine tira un po' tutta la bomba, che se la vedi al culo. Non fa niente qua. Sì, vabbè, ma non sanno più che cosa fare. Vabbè. Sì, comunque, niente di che, stiamo bene lo stesso. E tu, oggi sei a riposo, mi pare, oh, ti docca. Sì, capo, sì, vieni oggi. E infatti mi ha fatto la capo, agli altri della gente giù, quindi lui si vede a lui. Sì. ero io con Gianni e Elio c'era anche la stazionata. Adesso fra un po' mi sento il cuore dei piatti, vediamo che sicuramente sta apparecchiando, sta preparando. Questa è una mattina per noi, poi spegniamo tutto qua e si abbiglia in gomma di vostra mamma, come dice Natalino. E così è. Niente, io oggi pomeriggio, stasera non sono uscito per niente, stamattina ho il turno andare in giro, insomma la mattina a mezzogiorno 4 c'è appuntamento al dentista e poi no, domani a Manesco a farmi qualche altra commissione. E poi nulla, e la bomba rientra a casa, si tratta di questo vero calduccio fra. Non dire Jacopo, però se mi piace molto pure un calduccio. E vabbè, però ho pensato ai miei colleghi, ho fatto un altro messaggio a uno che era in coppia con me, e mi ha risposto la mazza che tiene varia, appunto l'ha scritto in dialetto sassarese, capito, perché era tutta la mattina a mezzo all'acqua. Perché è entrato un pezzo alle 6 e aveva appena finito di piovere, insomma c'era un po' di allagamenti, come succede normalmente quando piove. E infatti l'agio riposo ha detto, ma lo sai che l'abbiamo presa assieme l'acqua tante volte, no? Lei è un brivido. E vabbè, quello piove perché quando piove c'è l'aria che oppure sono combini, oppure sono tutti bassi e non vanno uscite, allora non va uscita, più che altro è quello. E soprattutto l'ingresso ai depuratori quantificato in metri cubi, capite? Sono depuratori che ricevono metri cubi dai paesi per il trattamento, però quando piove l'ingresso è superiore, quindi chiaramente tracimano, fanno casino, eccetera. E bisogna rimbucarsi le mani, quindi infatti guarda la mattina a pompe di Rendieva, Nette di Grigli, Dombini e Ballevai, tui fai, fammi le foto ogni tanto e mandamelo, e infatti mi ha mandato Lughigno mentre di qui a dire in gomma le vostre mani. Ehi, tu ti prendi un bel bicchierone, ci metti la birra dentro, fai la foto per gliela mandi. E la salita, ha già comprato il vino, ha già mandato la mezz'ora tra 5 litri di vino. Era già scritto, la faccia tua. No, è stata meglio freddo. E io, caro, no. Anche lui arriverà dove si arriva tutto. E sono a 20 anni, ero matto. Ho 40 anni di età, mi pareva già 20 anni di travaglio. 20, non facciamo tanto assieme, 25 ne avevo. No, io ci avevo tutti gli altri. Io ci ho avuto tutti gli altri, quindi è dove giovancello ancora, deve scoppiare. E vabbè, però una persona molto, molto in gamba, abbiamo lavorato tanti anni assieme, non abbiamo mai avuto un litigio, mai ci siamo detti una parolaccia. Persona veramente a modo. È della provincia di Cagliari, ma è tantissimi anni che abita a Santa Maria Covinas, quindi oramai è dei nostri, ogni tanto scende a casa, però questo periodo ha impegnato un bel, aveva con me un tempo, preparazione per gli impianti estivi e casini e balle varie. Va bene Franco lì, ok, mi fa piacere che ti abbia detto quella cosa, e niente, io mi devo andare a Sosso a trovarlo, se coincide che magari sia a riposo, che sei di sera, che sei di notte, ti chiamo e ti dico una cosa, ok? Beh, ti lascio che conta la cena, un abbraccio grande, saluto quelli che sono ascolto sul 10, per me è QRT, a domani a tutti, vai va. Ciao, ciao.